Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. La paralisi dovuta alla protesta degli autotrasportatori, ne abbiamo riparlato anche nel giornale radio, come avete sentito, oltre a far discutere l'Italia, sta iniziando a far sentire i suoi effetti e costa, si stima, almeno 200 milioni di euro al giorno. Le conseguenze vanno a toccare i consumatori ed è su questo che ci vogliamo concentrare questa mattina, al di là delle dinamiche e delle motivazioni che stanno alla base di questi scioperi che abbiamo approfondito già molto negli ultimi giorni. Frutta, verdura e altri prodotti freschi rimangono nei magazzini, si allungano le file dai benzinai, mentre gli scaffali di negozi e supermercati si iniziano a svuotare. La situazione naturalmente non è uguale su tutto il territorio nazionale, pertanto noi vi invitiamo da subito quest'oggi a segnalarci cosa sta succedendo nella vostra città, nelle vostre regioni, dal punto di vista dei disagi attesi anche per la distribuzione o se si sono già manifestati, appunto raccontatecelo. Come sapete, tra l'altro, esplosa anche nelle ultime ore l'ira dei pescatori, che ieri hanno manifestato duramente per il calo gasolio, per le regole nuove dettate dall'Unione Europea e per altre questioni aperte a Montecitorio in maniera molto dura. Ora, qual è il tema che preoccupa? I prezzi dei prodotti disponibili, data la carenza, che rischiano di volare alle stelle. C'è già chi lancia l'allarme speculazione. Rischiano di volare alle stelle, per la verità è un eufemismo, perché già a leggere i giornali questa mattina abbiamo appreso che un chilo di zucchine è arrivato a costare 7,50 euro, già partendo da 3 euro non è che il prezzo fosse tanto basso, però insomma qua stiamo triplicando a dismisura. Allora noi parleremo di tutto questo stamattina facendo il punto sulle ripercussioni del blocco dei trasporti che sta, oltre a congestionare tutta la penisola, anche appunto avendo questi riverberi. Prima di tutto, lo ribadisco ancora, vogliamo raccogliere le vostre testimonianze all'800 24 00 24, oppure al 349 238 6666 se ci volete scrivere, e se ci volete scrivere potete farlo anche all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. E già da ieri vi abbiamo invitato anche a scriverci sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, e anche qui ho notato che sono già arrivati dei racconti che adesso leggeremo. Con noi oggi Stefano Crippa, responsabile delle relazioni esterne di Feder Distribuzione. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. L'avevamo già sentita tossire, quindi i nostri ascoltatori avevano già immaginato che ci fosse un ospite in studio con me. Invece in collegamento telefonico ringrazio e saluto Giuseppe Politi, il presidente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E buongiorno anche a Massimo Vivoli, vicepresidente vicario di Confesercenti. Invece, buongiorno dottor Vivoli. Buongiorno anche a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Quindi faremo un punto, come avrete capito, sia per quello che riguarda la grande distribuzione, sia per quello che riguarda gli esercizi commerciali di dimensioni un po' più piccole, e poi appunto sentiremo se è vero che gli agricoltori sono costretti in queste ore o a svendere la loro merce, o addirittura a regalarla, o addirittura a disfarsene perché sta marcendo. Una situazione che davvero, alla luce delle difficoltà economiche in cui si trovano tante famiglie, ci disturba non poco solo a sentirla, solo a leggere dai giornali. Allora, vi ho già raccontato appunto quello che potete fare, chiaramente intervenendo a Salva Danaio in diretta questa mattina. Vi leggo già un paio di testimonianze su Facebook. Alla Spezia, ci scrive Sebastiano, non ci sarebbero problemi, scaffali S lunga, ci racconta lui, pieni di tutto, ieri però qualche coda ai benzinai, ma poca gente a comprare solo perché siamo alla terza settimana, quindi abbiamo dalla Spezia un versante sereno. Modena, ci scrive Giuseppina, stamattina ho comprato ciò che mi serviva senza problemi, anch'io l'S lunga, gli scaffali pieni, i commessi stavano mettendo a posto le merci. Vabbè, allora quindi abbiamo intanto dei segnali di tranquillizzazione. Allora sentiamo subito Stefano Crippa che cosa ci racconta relativamente al versante Feder Distribuzione. Stiamo parlando di due città che rappresentano un'eccezione. Dove sono le situazioni più problematiche in questo momento per quello che riguarda i supermercati, quindi le grandi insegne della grande distribuzione? Dunque, abbiamo avuto due testimonianze di due città del nord, perché un dato di fatto è che sostanzialmente il paese è stato fino a ieri spaccato in due, perché la situazione era molto più grave nelle regioni meridionali rispetto a quanto non fosse nel nord Italia. Il sud è stato sostanzialmente bloccato nei giorni scorsi, tutte le regioni meridionali, Campania, Puglia, Calabria, anche le Marche, fino a risalire all'Abruzzo, sono state tutte regioni che hanno avuto dei grossi problemi, con addirittura scaffali vuoti in alcuni punti vendita della grande distribuzione. Nel nord invece la situazione è stata più normale, quindi i blocchi ci sono stati in numero minore, però non hanno inciso in maniera così determinante sulla circolazione delle merci. È vero però che l'Italia è una e quindi il flusso di comunicazione dal sud al nord ha avuto un peso, quindi tutti i prodotti, in particolare l'ortofrutta che arriva dal sud, in questo momento ha ancora dei problemi. E quindi è più difficile trovare questi prodotti anche sugli scaffali del nord, anche se appunto, come abbiamo visto dalle testimonianze, non sempre ci sono delle situazioni allarmanti, quindi è una situazione che lentamente qualcuno segnala che sta cominciando a risolversi in qualche modo. Certo. Quindi esistono ancora delle situazioni di grande criticità, tutta la costiera adriatica per esempio in questo momento è ancora ferma, dalla Puglia a risalire, però comincia a aprirsi qualche varco a Villa San Giovanni, quindi anche dalla Sicilia, da e per la Sicilia ricominciano a viaggiare le merci, quindi speriamo che sia una situazione insomma, che in qualche modo riesce a rimettersi a posto. Luca ci scrive: a Vicenza tutto nella norma. Un altro ascoltatore da Udine, Franco, ci racconta le zucchine, ci racconta, questa è la sua riflessione, le zucchine, pomodori, peperoni sono prodotti estivi, ora ci sono anche i chilometri zero, cicoria, radicchio, cavoli, verze, finocchi, mele, impariamo ad acquistare. Questa è una regola che magari più che rispolverarla nei momenti di difficoltà come questa è bene che la come dire, facciamo nostra per tutta la durata dell'anno. Adesso quello che ci interessa invece è capire come gestire al meglio questa situazione di crisi, soprattutto se si va al mercato, al supermercato appunto con un certo budget, perché dobbiamo fare la spesa settimanale e questo budget non ci basta, perché appunto la zucchina da 3 euro è arrivata a costare 7,50 euro al chilo, situazione di speculazione purtroppo delle quali abbiamo confidenza, perché a volte capitano. Volevo sentire subito il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, Giuseppe Politi. Presidente, abbiamo letto in questi giorni di molte iniziative dei vostri colleghi di Coldiretti che per esempio hanno organizzato banchi di distribuzione gratuita di frutta e verdura, perché non potendoli appunto portare nei centri commerciali, nei grandi negozi, appunto a causa dello sciopero dei tir se li sono dovuti tenere in magazzino. Dal vostro punto di vista, oltre a aver lamentato che lo sciopero dei tir per l'agricoltura è stato un colpo micidiale, queste sono sue parole appunto che ho trovato su qualche agenzia, qual è il vostro punto di vista, come state gestendo in questo momento la situazione? Ma la situazione sembra che comincia a cambiare, cioè nel senso lentamente dalle campagne incomincia a essere preso, diciamo, il prodotto, quello che noi abbiamo avuto nei giorni scorsi, perché non dobbiamo dimenticare che noi partiamo dalla mobilitazione in Sicilia della scorsa settimana, che poi si è estesa anche nelle altre regioni, ma già dalla Sicilia parecchi ortaggi e frutta, soprattutto in questa stagione, se pensiamo alle arance, partono proprio dalle campagne di quella regione, e quindi non hanno potuto raggiungere, diciamo, i mercati normali di sbocco. È chiaro, per ciò che riguarda l'aumento dei prezzi, che c'è ed è considerevole, pure io voglio fare la stessa considerazione condividendola nel consumatore cittadino di Udine, se non sbaglio, che invitava a consumare frutta di stagione e prodotti a chilometro zero. Certo, dobbiamo farlo, però non tutti i consumatori possono farlo, non tutti i consumatori possono, come dire, trovare la disponibilità degli alimenti sotto casa, e quindi sono costretti a utilizzare, diciamo, le grandi catene della distribuzione, quali devono essere rifornite dalle zone di provenienza del prodotto. Se noi vogliamo le arance, a Milano forse queste arance devono venire dalla Calabria o dalla Sicilia, dalla Puglia, oppure devono venire da altri paesi fuori dall'Italia, quindi lì non c'è il chilometro zero che tenga, però c'è la necessità di garantire ai consumatori questa frutta, che è un tutto, diciamo, importante per l'alimentazione. Quindi in ogni modo c'è dei danni alle aziende agricole, ci sono dei danni anche per ciò che riguarda i consumatori, perché purtroppo succede, soprattutto questo avviene nei mercati rionali, che si approfitti di alcune situazioni per aumentare in maniera sproporzionata ingiustificata, diciamo, i prezzi. Ecco, qua, a proposito di questo, Siccome questo avviene spesso, noi ci auguriamo che prima o poi ci siano delle regole, cioè che in pratica ci sia una sorta di fotografia, così come avviene per i saldi, no? Quando ci sono i saldi si dice bisogna dimostrare qual è il prezzo il giorno precedente. Beh, noi diciamo bisogna, se si vogliono aumentare in maniera grossa alcuni prodotti alimentari, soprattutto del fresco, bisogna dimostrare che c'è stato un aumento all'origine, in modo da evitare che ci sia solo speculazione. E infatti, allora, mentre lei ricordava come si è originata questa situazione, che è partita appunto dalla Sicilia e dalla manifestazione, dalla iniziativa di protesta organizzata dal movimento dei Forconi, ma non solo, e forse appunto questa l'evoluzione della situazione di questi giorni verrà ricordata anche come la questione della zucchina, appunto, lo ribadisco ancora, che è arrivata a costare 7,5 euro al chilo. E noi questa mattina abbiamo sentito nella nostra trasmissione prima edizione, che questa settimana è condotta da Anna Migliorati, Sara Paraluppi del Centro Studi di Coldiretti, che appunto ci esprime le sue considerazioni relativamente a questo aumento dei prezzi. Sentiamo che cosa ci ha detto, per capire poi se lo condividono anche i nostri ospiti di questa mattina. Sentite. Non è necessario aumentare i prezzi, si rischia in queste occasioni un comportamento non corretto e non adeguato nei confronti dei consumatori, con magari la possibilità o la speranza di centellinare la merce per cercare di capire quanto si riesce a conservarla e quanto tempo si riesce a portarla, per quanto tempo si riesce a portarla sui banchi, soprattutto dei supermercati. È chiaro che sta scarseggiando, perché ricordiamo che l'86% dei prodotti, tra cui quelli agroalimentari, viaggia su gomma in Italia, e quindi sicuramente una percentuale altissima, e i problemi maggiori passano per i prodotti freschi e freschissimi, quelli che hanno breve durata, quelli che devono arrivare in tempi rapidi sui banchi dei supermercati per poter poi essere disponibili. Però voi stessi, come Coldiretti, dite in questo momento non è necessario ancora aumentare i prezzi. No, non è necessario aumentare i prezzi, proprio perché i prodotti sono disponibili in campagna, sono disponibili su tutto il territorio italiano nelle nostre aziende, per cui ci sono, non che manchino, non sono presenti nei supermercati perché non riescono ad arrivare. E quindi questo è il motivo per cui i prezzi aumentano. Allora, Crippa, mi spiega come avviene questa moltiplicazione lungo la filiera che porta addirittura la zucchina ad arrivare ad un prezzo che abbiamo indicato prima? Come mai la protesta, appunto, ha avuto un effetto moltiplicatore così rilevante? È così. Perché qua adesso sul banco degli imputati ci siete finiti voi, naturalmente. Ma guardi, noi non possiamo essere sul banco degli imputati, perché noi subiamo in questo momento quello che sono gli aumenti dei prodotti che noi a nostra volta compriamo. L'ultima cosa in questo momento che vuole fare la grande distribuzione, ma che vuol fare qualsiasi commerciante che abbia un minimo di cervello, è quello di aumentare in maniera speculativa i prezzi ai consumatori. Noi viviamo tutti i giorni il rapporto con le famiglie, con le massaie che vengono da noi a comprare, e vi assicuro che è una situazione di grande criticità. Diminuiscono i consumi dei prodotti alimentari, cosa che è un fatto abbastanza grave e nuovo anche nella storia dell'economia italiana, e quindi si figuri se c'è qualcuno che vuole aumentare i prezzi riducendo ancora le quantità che poi le famiglie possono comprare. Quindi è assolutamente una situazione che è precedente a quello che è l'acquisto poi che qualsiasi tipo di commerciante fa di questi prodotti, e purtroppo è così. Cioè, noi abbiamo verificato che in questo momento stanno aumentando i prezzi, e per un fenomeno strano e tutto italiano, la zucchina è sempre quella che in qualsiasi situazione aumenta di più, e quindi i titoli sono sempre sulla zucchina. Però effettivamente sta aumentando tutto in misura considerevole, anche il 20%, 30%, 40%. Quindi questi sono i prezzi ai quali noi compriamo la merce. Il nostro sforzo è quello di cercare di non ributtarla sul consumatore. Qualcuno lo sta facendo in maniera assolutamente decisa, ci sono delle insegne che hanno lasciato totalmente inalterati i propri prezzi alla vendita, qualcun altro lo sta facendo in maniera marginale. Queste sono scelte aziendali, anche perché è una situazione di breve periodo, quindi è comunque una situazione che si può cercare di riassorbire e di governare, proprio perché vogliamo portare i minori disagi possibili al consumatore. Anche perché si auspica, già ne ha, perché appunto, non trova certamente, i prodotti. No, anche perché si auspica che comunque la situazione si ridimensioni nel giro di poco. Il problema è capire come mai, appunto, per una situazione che chiaramente non è destinata a durare un'eternità, queste fiammate debbano partire immediatamente. Eccoci ritrovati a Salvadanaio con Stefano Crippa di Federdistribuzione. Stavamo dicendo a microfoni spenti che insomma ogni volta la questione della zucchina si ripete, è diventata folcloristica persino per gli operatori del settore. Comunque il tema di cui stiamo parlando questa mattina stiamo cercando di capire, anche se ormai è passato qualche giorno e forse la situazione nelle prossime ore potrebbe normalizzarsi. Stiamo parlando degli effetti del blocco dei tir delle ultime giornate, partito con il clamoroso caso e la clamorosa contestazione del movimento dei forconi in Sicilia per poi propagarsi inevitabilmente in tutta Italia. Chiaramente da là le arance non partono, ma non solo queste. Cosa succede a distribuzione, ai prezzi? Cosa succede tra i consumatori? E allora molti di voi ci stanno segnalando appunto quello che stanno vedendo ai banchi del supermercato. Giuseppe ci scrive su Facebook: in Friuli tutto ok, camion sulla A14. Tanti, benzina ok, supermercati pieni, dice anche troppo allarmismo, non ci sarà nessuno che muore di fame, sicuramente non c'è nessuno che muore di fame, stiamo solamente raccontando per cronaca appunto quello che è accaduto negli ultimi giorni, se è anche giustificabile che ci sia stata questa moltiplicazione immediata dei prezzi, soprattutto sui beni deperibili, sulla frutta e sulla verdura. Non solo la zucchina, che ormai passerà alla storia insieme al movimento dei forconi di questa protesta, come emblema di questa protesta, 7,50 euro al chilo, anche l'insalata da 2 euro al chilo è passata a 4,30, vi racconto alcune cifre che sto leggendo sui giornali. Il costo delle arance è raddoppiato, così come quello degli spinaci e dei broccoli. Federconsumatori ha fatto i conti in tasca alle famiglie: con 2 settimane di blocco dei camion, la spesa media mensile aumenterà di 144 euro, con 3 settimane 2,80. Manca la benzina in molti impianti, nel napoletano a Frosinone, e questo è un altro caso che ci segnalano gli ascoltatori, che parlano anche di sciacallaggio dei benzinai. E vabbè, insomma, lasciamo stare, rimaniamo alla frutta e alla verdura. Vorrei sentire un paio di ascoltatori, poi vado a Massimo Vivoli di Confesercenti. Allora, Carlo dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Senta, io stamattina sono andato giù al mercato rionale che è qui sotto casa mia. Le bancarelle erano stracolme di merce a questo punto. Allora, ho comprato due cose: i carciofi, e li ho pagati 3 euro, 10 pezzi, erano veramente belli. Le arance, addirittura meno di settimana scorsa, che la settimana scorsa era 1 euro e adesso me ne hanno andate a 90 centesimi al chilo. Addirittura, ce ne avevano fin troppe. Meno. Le alici invece, che dovevo prendere il pesce, sono volate a 15 euro, un prezzo mai visto, contro i 6 euro di settimana scorsa. Allora, la mia considerazione è questa qua, due parole: chi aumenta adesso, secondo me, prende scusa da tutto l'allarmismo che è stato dato dalle immagini date in televisione. Questo per dire cosa può servire la televisione in certi casi, solo questo, grazie. Non la radio però, Carlo, vero? No, non la radio, la televisione. Perché l'immagine le dà la televisione. Grazie. Guarda che l'immagine fatta in una certa maniera è veramente deleteria. Carlo, grazie. Adesso qua non vorremmo aprire il processo alla TV, qualche volta è anche vero, però insomma noi stiamo sentendo anche i protagonisti di questa situazione e non attribuiscono la questione appunto dell'aumento dei prezzi all'effetto mediatico, che magari ci sarà, anche qualcuno coglie la palla al balzo e ne approfitta, però insomma speriamo che non sia riconducibile esclusivamente a questo. Marco da Trento, Marco buongiorno, qual è la situazione da lei? Sì. Buongiorno, senta, giusto stamattina sono andato a fare la spesa, diciamo, dove vado di solito, un piccolo negozietto di verdura. I prezzi sono stati aumentati, anche se qua da noi a Trento non c'è, diciamo così, tutto quel grosso problema che lei ha evidenziato a Napoli, in Campania e in Sicilia. Sì. Questo nonostante i magazzini siano pieni, quindi una parte di speculazione da parte dei commercianti c'è, perché colgono l'occasione anche qui da noi. La cosa interessante invece è questa, che chi si rivolge sui gas, essendo, diciamo così, piccoli produttori che tendenzialmente producono in funzione di quanto vendono, i prezzi stanno scendendo, anzi non stanno aumentando, la disponibilità di merce c'è, anche perché non c'è il problema del trasporto. La cosa che mi sembra strana è che, essendo, diciamo, dei focolai, quindi non essendo una cosa generalizzata su tutta Italia, il problema sta diventando italiano. E la cosa che non capisco, se vuole, in termini, diciamo così, di manifestazione, della quale ritengo che abbiano diritto tutti quanti di manifestare, è il metodo col quale è stata fatta, perché se io le metto la macchina, diciamo così, dietro alla sua per impedirle di muoversi, rischio di prendere una denuncia per violenza privata. Ma pensi che le modalità della contestazione poco fa sono state contestate, sono state diciamo in qualche maniera condannate anche dal numero uno della CGIL e dalla Camusso, pur condividendo appunto molto le ragioni della protesta, Marco, le modalità ovviamente per farsi sentire, poi qualche volta si, come dire, si alzano i toni fino ad esasperarli. Marco, la ringrazio. Ha citato il piccolo negozio. Massimo Vivoli, vicepresidente vicario di Confesercenti. Tra di voi la situazione qual è? Io adesso, come dire, la associo alla, perché rispetto a Federdistribuzione magari così rappresentate quelli un po' più piccoli, poi chiaramente avete anche voi grandi situazioni commerciali, appunto, naturalmente, che rappresentate, però così esprimendomi un po' le riflessioni del mondo dei piccoli, qual è la situazione adesso? Ci sta a quello che ci raccontava Marco, che dice comunque qualcuno un po' ci marcia? No, noi non ci stiamo, cioè, nel senso che si è creata molta confusione, perché è una situazione che tra l'altro sta cambiando di ora a ora e si sta riportando verso una situazione di normalità a livello generale, ecco, in tutto il paese. Noi abbiamo monitorato tra l'altro le nostre attività su Bari, Reggio Calabria, Roma, Firenze, Ferrara, La Spezia e Torino, e i prodotti ci sono, i prezzi anzi in alcuni, su alcuni prodotti sono addirittura diminuiti. C'è sicuramente stato in precedenza, per lo sciopero che c'è stato, i blocchi creati da parte dei tir, sono stati danneggiati sicuramente alcuni prodotti dell'ortofrutta e della verdura, ma direi anche principalmente i maggior danneggiati sono quelli che esportano i prodotti anche all'estero, perché anche tutta questa confusione che si è creata per quanto riguarda la situazione, diciamo così, generale nel paese era accentuata un pochino di più maggiormente perché è partita dalla Sicilia nel sud del paese, ma anche lì ci risulta che stia tornando alla normalità. Ora, molto preoccupa anche il fatto che si è sicuramente anche aggiunta lo sciopero da parte dei pescatori, però i prezzi della carne e del pesce sono rimasti invariati, non ci sono speculazioni lungo la filiera, come però purtroppo è accaduto su alcuni prodotti che riguardano la frutta e la verdura. Ora, se lo zucchino è in alcuni supermercati, in alcune attività viene venduto a 7 euro, invitiamo i consumatori a non consumare lo zucchero e trovare alternativa magari in altri prodotti. Ecco, però io vorrei dire che per quanto riguarda la nostra categoria sul territorio nazionale ci viene segnalato un ritorno alla normalità, tra l'altro in un contenimento dei prezzi, e se ci sono chi specula in questo momento qui ci sono gli strumenti perché vengano denunciati. Denunciati e soprattutto, insomma, il consumatore può fare il suo lasciandoli tutto sul banco. Giusto, intanto, giusto. Certo. Allora, vi leggo ancora qualche messaggio. A Pescara, nella media distribuzione, scaffali piuttosto sguarniti, ma non pare ci siano aumenti rilevanti di prezzo. Al mercato ortofrutticolo ieri poco assortimento. A Senigallia Giacomo ci scrive, quindi nelle Marche, ho appena acquistato all'Ipersimpli, scaffali a posto, nessun problema. A Trento, Marco, ieri all'Ipercoop, arance esaurite, e vabbè, a Trento sicuramente hanno fatto più strada perché sono esaurite lungo il tragitto, gestori in attesa di rifornimenti di agrumi dalla Spagna. Ecco qua, Crippa, questa è un'altra deriva del problema? Allora, certamente per quello che riguarda i nostri punti vendita, l'obiettivo che abbiamo è quello di cercare di diminuire il più possibile il disagio per i consumatori, quindi cercare di mantenere gli scaffali con le quantità adeguate a quelle che sono i consumi abituali. In questi giorni sono venuti a mancare dei rifornimenti di alcuni prodotti, tipicamente quelli che arrivano dal sud Italia, e quindi questo è un dato di fatto. E per accontentare il consumatore bisogna per forza rivolgersi ad un paese fuori dall'Italia per accontentarli, cioè non si può vivere, un supermercato non può fare a meno 3 giorni delle arance? Allora, questo come sempre sono scelte che riguardano le aziende, però indubbiamente volendo cercare di mantenere costante il servizio al consumatore, qualcuno che ha già rapporti con i paesi esteri, per esempio si è citata la Spagna su alcuni prodotti, può aver consolidato questo tipo di rapporto per cercare di compensare quello che non arriva più da altre parti. Le aziende stanno cercando di fare così, stanno cercando di sfruttare tutte le fonti di approvvigionamento che ci sono per cercare di mantenere il servizio, questo è quello che dobbiamo fare. Oltretutto siamo già abituati a vederli sui banchi dei supermercati, non è che questo è un frangente in cui la situazione debba cambiare, però così fa un po' senso, fatto non per essere dei protezionisti a tutti i costi, per carità, però il Made in Italy nostro è buono, le arance soprattutto, il Sud, certo, Italia. Ma difatti la grandissima parte dei prodotti che si vendono nei supermercati sono di provenienza italiana, questo è fuori discussione. Poi ci sono anche dei prodotti che hanno provenienza straniera, che servono a compensare gli assortimenti, negli anticipi o nei ritardi di stagione, perché altrove ci sono appunto delle stagioni che possono essere più lunghe rispetto a quelle che ci sono in Italia, quindi si possono avere arance prima o dopo rispetto a quella che è la coltivazione della Sicilia, della Calabria. Però questo è nella natura delle cose, certo. Insomma, noi da consumatori vogliamo entrare in un supermercato e avere la sicurezza di poter fare la spesa. Questo significa che il supermercato, dall'altra parte, in qualche modo si deve attrezzare per far sì che questo servizio per il consumatore ci sia sempre. Volevo sentire il presidente Puliti cosa ne pensa di tutto questo rispetto adesso al fatto appunto che per comunque mantenere una certa varietà sui banchi dei supermercati, per non far mancare l'arancia al consumatore, si debba incrementare l'importazione dalla Spagna o da qualsiasi altro paese. Io dico siamo alle solite, infatti pure a quel consumatore, se non sbaglio, di Udine, che ha detto che ha trovato le arance a 0,90 e le carciofi a pochi centesimi di euro, ma non so se quello è il caso, però io chiederei anche la provenienza di quello che ha comprato. Non vorrei che le arance vengano dalla Sierra Leone, quindi non solo dalla Spagna, e che i carciofi vengano dall'Egitto, insomma, quindi se il consumatore deve stare anche attento e pretendere l'origine del prodotto. Poi è chiaro, è libero di scegliere, il commerciante è libero di proporre qualsiasi tipo di prodotto per ciò che riguarda la provenienza, e lo stesso il consumatore è libero di scegliere, ma il consumatore non deve essere imbrogliato, perché in molti casi, diciamo, quel consumatore pensa di acquistare arance siciliane o italiane, insomma, carciofi provenienti dall'agro pontino o dall'Emilia, dalle zone di produzione italiane, e poi magari vengono da migliaia di chilometri di distanza, con tutto ciò che comporta, quindi non è solo una questione, come dire, di Made in Italy, che già è importante, ma anche un problema come viene conservato in questo prodotto. Non dobbiamo mai dimenticarlo, che è sicuramente legale dal punto di vista sanitario e così via, ma qualche problema, diciamo, ce l'ha. Sicuramente non c'è la genuinità, sicuramente ci sta anche dei conservanti, perché nelle celle frigorifere devono essere mantenuti, insomma, è tutto ciò che però oggi abbiamo la certezza abbastanza consolidata, presidente, che l'origine dei prodotti sia sempre indicata. Lei esprime dei dubbi anche, allora, su questo? Vorrei che facciamo tutti insieme un giro nei mercati, soprattutto nei mercati regionali e così via, e non solo nei mercati regionali, a capire se c'è l'origine del prodotto, insomma. Benissimo. È obbligatorio sull'ortofrutta, sul fresco, indicarlo l'origine. Ecco, io sfiderei tanti consumatori a vedere se poi questa legislazione, questa norma viene mantenuta. Ma certo, presidente. In molti casi, soprattutto nei mercati regionali, non c'è mai l'origine del prodotto. Allora ci fermiamo adesso, perché sì, abbiamo detto che la situazione si sta molto gradualmente normalizzando, abbiamo raccontato di storie di città dove tutto sommato la situazione è sotto controllo, dove non c'è nessun banco privo di merce nei supermercati e nei negozi. Ci sono però invece delle città che ci stanno raccontando degli ascoltatori vivono invece ancora un quadro piuttosto problematico. Verze a 68 centesimi al chilo, ci scrive Graziella. Chi compra le zucchine ora non merita la nostra attenzione. Oltre allo sciopero di tutta una serie di servizi verso i quali appunto andremo incontro, faremo anche lo sciopero della zucchina. Però adesso, a parte insomma il commento che può fa anche ridere quello che faccio, ma effettivamente è così, siamo dei consumatori attenti, non ci possiamo più permettere di buttare via i nostri soldi, per cui effettivamente queste derive combattiamole in questo modo. Allora, parlavamo delle situazioni particolarmente problematiche in alcune città del sud, e penso che Bari possa essere la portabandiera adesso di questa situazione. Michele, buongiorno, all'800 024 0024, che succede? Buongiorno, sono Michele. Niente, una testimonianza. Io telefono da Trane, vicino a Bari. Stamattina mia moglie è andata alla DOC, scaffali vuoti. È andata al Maxi Series, scaffali vuoti. Vuoti di tutto, Michele, di ortofrutta, di frutta e verdura oppure di anche altro, ma che ne so, pasta, anche latte, altre cose, che di l'olio prende sempre. Proprio i scaffali sono completamente vuoti. Poi ieri c'era alla benzina un benzinaio che aveva la benzina, c'era una fila di un chilometro, finanzieri, carabinieri, pullman bloccati. Qua a sentire che dalla parte di su sta quasi sì, tutto a posto, però qua siamo proprio ancora a zero. Michele, grazie. La sua testimonianza viene confortata da quella di un altro ascoltatore, Gigi, che ci scrive su Facebook: a Bari, distributori in città privi di carburante, di cui pochissimi hanno solo la benzina, in autostrada sono pochi i distributori nella zona, aperti, di cui solo un paio hanno il gasolio e sono sovraffollati. Pare che i blocchi delle autocisterne avvengano direttamente in raffineria a Taranto. Notizie sull'approvvigionamento delle aree di servizio non ve ne sono, scatenando la caccia all'accaparramento dei prodotti petroliferi. E allora, anche voi avete avuto evidenza, Stefano Crippa, di situazioni particolarmente problematiche in Puglia? Sì, è un po' quello che dicevamo all'inizio, è la logica dell'Italia spaccata in due. Le regioni meridionali hanno sicuramente sofferto più del nord di questa situazione, e in particolare la Puglia è una delle regioni più critiche, lo è stato nei giorni scorsi e, per quelle che sono le informazioni che abbiamo noi, lo è ancora adesso. A partire poi dalla Puglia e per tutta l'Adriatica, quella ci è stata segnalata come una delle aree ancora più problematiche. Certo, insomma. Senta, ma può accadere che un centro della grande distribuzione, nel caso non sia approvvigionato, non lo so, adesso io parlo di Bari, ma ammettendo che avvenga questo problema in un'altra città, delle arance della Sicilia? No, se quelle arrivano dalla Sicilia no, ma per esempio si può approvvigionare di ortofrutta da un negozio, da un agricoltore più piccolo che magari lavora in zona e che se va nel centro commerciale e propone la sua merce? Oppure voi siete vincolati esclusivamente da certi contratti? Si possono aprire anche queste opportunità in situazioni di emergenza come quella degli ultimi giorni? Certamente si possono aprire queste opportunità di rivolgersi al mercato locale, all'ingrosso, eccetera, sebbene questi siano canali marginali nella strategia di approvvigionamento di una grande distribuzione, che di solito appunto ha rapporti consolidati con operatori più grandi e che garantiscono regolarità nei rifornimenti. Però è chiaro che questa è una delle soluzioni che si sta cercando di trovare laddove le situazioni sono più critiche. Il problema è che comunque, a meno che non ci sia proprio il trasporto del prodotto per 200 metri dal punto vendita al campo, altrimenti c'è bisogno comunque di un trasporto, e quindi se il trasporto riesce a essere effettuato con mezzi piccoli, probabilmente è più agevole rispetto ai grandi bilici, che invece trovano tutte le difficoltà che ci sono. Volevo state, sentire insomma, il presidente Politi su questo, se magari in questi giorni si sono aperti anche dei canali straordinari di rifornimento, se anche per gli agricoltori ci sono state addirittura opportunità di collocare la propria merce su, non lo so, esercizi commerciali diversi rispetto al tradizionale. No, questo purtroppo è malettamente difficile, cioè nel senso che se viene il consumatore direttamente in campagna o al punto vendita dell'azienda agricola, ok. La grande distribuzione ha le sue piattaforme, cioè quello che poi non viene detto è questo, cioè in molti casi un prodotto, magari stiamo parlando di Bari, che viene prodotto a Taranto, deve andare da qualche altra parte e poi tornare a Bari. C'è un problema, come dire, di logistica, chiamiamolo in questo modo, di organizzazione di movimentazione delle merci, che hanno le loro logiche, nelle quali io non voglio ovviamente entrare nel merito, però spesso questi prodotti, insomma, che sembrano vicini, si spostano di diversi chilometri. Può capitare che un carciofo prodotto nel lago di Brindisi va in Emilia Romagna e poi ritorna alla Coppa di Bari, insomma, ecco, ma è una questione di organizzazione, diciamo, delle singole strutture, delle cosiddette piattaforme che hanno di lavorazione e confezionamento del prodotto, che ha le sue logiche. Quindi per un singolo, soprattutto medio, è difficilissimo, come dire, entrare direttamente anche in situazioni, come dire, di emergenza come quale è quella di oggi, insomma. Certo, allora intanto vi segnalo un altro ascoltatore che ci scrive: a Crotone tutto bloccato, domani si fermano anche gli autobus urbani, forse per la mancanza di carburante. Anche in questo caso non vi sto a dire neanche neanche a continuare a dire quanti commenti arrivano sulla questione della zucchina, che chiaramente, essendo un prodotto completamente fuori stagione, paga anche quello. Quindi l'invito a lasciarla lì sul banco, se costa 7,50 euro, così come tutti gli altri prodotti completamente fuori stagione. Se invece sono i prodotti di stagione che hanno visto lievitare i prezzi, Massimo Vivoli, qua come ci difendiamo? Come facciamo a scoprirlo se c'è un commerciante che un pochino se ne è approfittato, che so che sono situazioni che fanno arrabbiare molto anche le organizzazioni di categoria, no? Che li rappresentano. Sì, no, ma sicuramente il fatto che i consumatori sono il patrimonio, diciamo così, anzi, bisogna fidelizzarli, sicché l'esercente, il commerciante, la stragrande maggioranza sicuramente dei nostri operatori fidelizza il cliente trattandolo bene, non solo come servizio, ma anche con prezzo. Se ci sono situazioni per le quali a un certo momento si vede, si evince che c'è una speculazione sopra, ci sono gli strumenti per poterlo denunciare. I nostri negozi, che sono negozi di vicinato, cioè, non ci dimentichiamo che in Italia il 70% del settore alimentare è coperto dalla grande distribuzione. I negozi di vicinato ci hanno tra l'altro un sistema per rifornirsi del territorio, che c'hanno una situazione che è stata fino ad oggi anche più tranquilla rispetto alle grandi superfici. Allora, altro aspetto che sicuramente volevo evidenziare, che si è detto anche nella discussione, è vero che sono calati i consumi nel settore alimentare, ma quello di qualità sicuramente ha subito, perché sono aumentati molti quelli che sono i consumi nelle strutture di hard discount o meno. Cioè le famiglie oggi purtroppo hanno problemi, non perché non si trova la roba, che purtroppo oggi... perché non si trova dentro il portafoglio la roba che serve, ecco, infatti. Questo realmente è il problema, che bisogna a un certo momento che il governo se ne faccia carico. E allora, e questi sono i frangenti in cui anche questo problema riemerge praticamente insieme a tutti gli altri. Allora, volevo sentire solo 5 secondi Gabriele da Pantelleria prima della nostra chiusura, perché forse è un'altra testimonianza significativa. Gabriele, rapidissimo, la ringrazio. L'unica cosa che volevo far presente è questa, che nessuno ha tenuto conto del fatto che Pantelleria è un'isola e quindi è molto condizionata anche dalle condizioni meteo. Se a questo viene aggiunto questa protesta hanno fatto i camionisti, che qualche giorno fa hanno provato a venire, però non hanno fatto salire i camion. Quindi qui manca tutto, manca il latte, farina, formaggio, uova, tutto ciò, senza contare poi addirittura i prodotti ortofruttivi. E quindi insomma il problema della zucchina a 7,50 euro è il vostro ultimo problema. Gabriele, devo interromperla perché purtroppo devo salutare, la trasmissione è terminata, monitoreremo ancora la situazione sperando che ritorni nella normalità nel giro di pochissime ore, neanche giorni. Grazie a Stefano Crippa, Feder Distribuzione, Massimo Vivoli, Confesercenti, presidente della CIA Giuseppe Politi. Salvadanaio torna domani. A tutti buona giornata e speriamo anche buona spesa.